La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Oggi continuiamo a parlare del libro di Michele Mari, Di bestia in bestia, il suo primo romanzo appena ripubblicato da Einaudi in una nuova versione. L'altra volta ci siamo lasciati con continua al prossimo numero, quindi adesso riassunto della puntata precedente, Di bestia in bestia. Tre viaggiatori nella bufera, la neve cade, una strana neve, violenta, quasi nera, fra le montagne, in una regione remota, dove si parla una rozza lingua sconosciuta. Sono due scienziati, il professor Pesumai e il narratore, invaghito della bella signorina Ebe Blakey, la loro segretaria. Finalmente trovano rifugio in un castello fra le rocce, dove li accoglie gentilmente Osmok, un erudito che vive lì solo col suo servo gigante Epeo, il ritratto di Emilia, la moglie defunta, e una immensa biblioteca che è la sua vera compagnia. Si scopre subito che la signorina Ebe Blakey rassomiglia in modo impressionante alla sposa morta di Osmok. E presto accadono dei fatti terrorizzanti, barriti terribili, il professore viene aggredito e ferito nel buio e i sospetti sono tutti su Osmok, che viene sorpreso dal narratore mentre cerca di violentare la signorina Ebe Blakey. Ma uno strano Osmok, mal vestito, con degli unghioni, quanto l'altro invece è fine e curato. E finalmente, dopo l'aggressione, il padrone di casa, proclamandosi innocente di ciò che pure gli hanno visto compiere, si decide a raccontare la verità sul mistero del castello e di quelle aggressioni. E da qui riprendiamo dal racconto di Osmok ed entriamo nel tema essenziale della letteratura di Michele Mari, il doppio, come dice l'autore, la lotta tra natura e cultura che fa di ogni uomo un ossimoro. La guardiana del faro. Can you tell me where my country lies? Said the uniform to his true love's eyes. Stiamo raccontando Di bestia in bestia di Michele Mari, dove tre viaggiatori rimangono prigionieri per la neve in un castello, ospitati dall'ambiguo, squisito e losco Osmok, il quale racconta della sua vita. Paper late, cried a voice in the crowd. Old man dies, the note he left was signed Old Father Thames. It seems he's drowned, selling England by the pound. Osmok racconta di sé, racconta dei sogni di lui adolescente sulle donne, paralizzato da una timidezza che è attitudine al sogno. Lui è un cultore dell'amore assolto dalla materia, l'amore senza corpo. Guardare e non toccare, mi diceva la mamma nella pasticceria rutilante, e io correvo subito col pensiero agli occhi della Smaragni Chiaretta o ai sandali della Bucalossi Martina, le sue compagne di scuola. Lui ha queste fantasie amorose senza un contenuto preciso. A prendere slancio e sostanza bastava a quelle fantastiche fole lo sguardo fuggente incrociato per via, la testa ben modellata intravista al finestrino del treno, la cugina più grande che grida al volano incagliato lassù nei querciuoli. I miei compagni avevano esperienze precoci? O non precoci, poniamo, ammettiamo, e in grave ritardo io invece? E io mi rivalevo leggendo, sì, ridete. E più oltre, e poi quindicenne e ventenne, assente presente osservando, assicurava ragione agli immaginari miei detti, agli sproporzionati atti ingenui, così come all'immortale mancego Aldonza guardiana era condizione di sogno, né senza lei avrebbe tolto impresa veruna. Crescevo, e i miei simili si innamoravano, si fidanzavano, si sposavano. Io li osservavo da una specola discosta senza patirne esclusione e mi dicevo che mai avrei cambiato con loro il mio stato, perché a quelle fantasie femminine mi ero talmente affezionato da non essere più disposto a rinunziarvi. Capite? Nelle donne reali incominciavo a vedere delle pericolose rivali di quell'altre mie sole. la concorrenza sleale dei libri. L'impietosa sentenza era commento al mio caso. Vedo ora bene che a forgiare il mio fato fu la paura di soffrire. Appena un vilissimo calcolo di personale interesse fu l'impreparazione alla vita. Temevo su tutto l'idea di cadere in una passione, non dico infelice, che perfezione va pur nel dolore, ma spuria, incompleta. Risale a quel periodo la mia passione per la lirica cortese. Riconoscevo in quella poesia un manifesto sentimentale che ben potevo dir mio e che fin troppo strettamente assunsi a regola di vita. Guardare e non toccare. La mia libertà era infinita. E poi l'incontro con Emilia. E tutto questo castello di sogni rischia di essere distrutto. Mai avevo incontrato creatura più meravigliosa di quella che in un punto si insignorì di mia mente per non uscirne mai più. Con Pita Angelella tu fosti, o come allora ti sognai, io mi ti sogno tuttora. Per la prima volta le mie petizioni d'amore erano sul punto di trovare un contenuto. Vivere. Dunque anche per me la vita sarebbe stata realtà. La vita. Ed Emilia. Ma a che serve riandare? Io sono ridotto al punto di dovermi ignorare. C'è questa donna vera, questa donna viva. L'amore era lì. Ma allora, come non mai, temevo accostarmi. E fu proprio il mio comportamento scostante, scambiato per timidezza, a guadagnare le vie del suo cuore. Emilia, l'eccezionale creatura venuta a tentare la mia collaudata esistenza di paguro rinchiuso. Sì, la natura d'amore è la natura del sogno. E sempre il sogno non è, perché se fosse, perderebbe la qualità che il fa sogno. Così, per bene di quell'eterea creatura, io dovevo fuggire la donna reale. Fin troppo facile immaginare cosa ne sarebbe stato di quell'amore una volta affidato a noi termini sordi, noi di noi stessi ostacolo impervio. L'amore, ma per me l'amore era Damasco Lontana, il principe Andrea nell'edizione Marzocco, l'arcipelago della sonda. Viva ognuno secondo il suo genio. Il mio essendo di evitare lo scacco, cercavo in perpetuo lo stallo. E Emilia si interessa moltissimo a lui. E lui invece continua a essere ritroso. Non uscivo con lei per meditare di lei. Non le parlavo d'amore per intendere meco la natura del Dio. È difficile uscire da questa culla. E insomma decide che non rovinerà il suo amore entrando in contatto carnale con la sua amata. No, non avrei giocato quel gioco. E qui parla del disgusto reciproco che hanno gli umani per gli umani. Ditemi, vi è mai capitato in tranvia di seder fiduciosi su seggio che anonime terga riscaldaron testè? Di stringer la mano sul tubolare zincato a serbare l'equilibrio, trovarlo orrore tepente? Forse che non vi siete subitamente ritratti come aveste calcato una serpe. E quello il calore cui tanto plaudete, 36 gradi di genuino ribrezzo. Proprio l'amore. Questa passione per eccellenza è in realtà delle passioni la più teorica e astratta, perché esiste soltanto come utopia di se stesso. Però Emilia è lì e pretende. Emilia era lì, scandalosamente viva, e udite il caso, innamorata di me. Ma proprio questo era ancora più impossibile. Innamorata di me. È come essere sognati dal proprio sogno. E poi le ragioni che lui dà sono eccellenti. L'anima è fin troppo schernita da un singolo corpo, figurarsi da due, perché le anime sono discrete e appena parlano i corpi si ritraggono timidette in se stesse, frastornate da un dialogo identico a quelle che torce le membra del manzo, del sorcio, le pinne del pesce, il pistillo del fiore. Citizens of hope and glory, time goes by. It's the time of your life. Avevo un fratello gemello, Osak. Mentre Osmok è un fenomeno dell'intelletto, Osak, il suo gemello, non ha quasi l'uso della parola, ma è un campione del corpo. È un gigante, fisicamente fortissimo, come se il corpo si fosse sviluppato a scapito della mente. E il padre, mentre è orgoglioso di Osmok e del suo successo nello studio, si vergogna di Osak e così lo mandano in campagna. E crescono. Osmok diventa sempre più intelligente e Osak sempre più bestialmente forte. Oh, dire che Osak l'hanno mandato in campagna evoca spazi, libertà, respiro. In verità l'hanno messo in prigione, perché sta rinchiuso nella cantina, nella casa del fattore. Osmok parla di suo fratello e sono pagine piene di pietà. Oppure non si trattava affatto di una tara, ed era semplicemente l'ipertrofismo abnorme del corpo a soffocargli in sul nascere la scintilla del pensier timidetta. Parlanti, così Omero designa gli umani, ma mio fratello era escluso dal dono della parola. Straordinariamente precoce nel fisico, voglio dire, all'età di 6 anni era già irresistibilmente attratto dalle sue incaute compagne di giochi. Mio padre e mia madre non sapevano più come fare. C'era sempre un genitore infuriato che protestava per il disdicevole comportamento di mio fratello, finché il padre lo ritira dalla scuola e racconta delle sue visite in campagna. Povero fratello mio, fin dall'inizio ho provato per te tanta pietà che non posso dire se ti abbia mai amato. La mamma se n'era andata in silenzio e io avevo perso di vista tutti i miei vecchi compagni d'infanzia e ai nuovi non osavo svelare quel tremendo segreto. Un figlio unico, ecco cos'ero per loro. E mio fratello sempre più perso, sempre più solo. E intanto il tempo non si fermava. Entrambi avevamo varcato la soglia ambigua dei 20 anni. E io andavo nel mondo e lui stava. Quando Osmok va a trovarlo in campagna, il fratello è felicissimo, dà segni di grande gioia. Quando la moglie del fattore gli apre la porta, le grida di mio fratello, che fuori di sé dell'eccitazione strepitava per farsi aprire, per congiungersi a me come anela il magnete al suo nord. Qui si apriva il portoncino che solo tratteneva il mio gemello al di là della storia. E lui raspa freneticamente dietro la porta, mugola dall'impazienza di abbracciare il fratello, e finalmente era aperta. Ed eravamo l'uno nelle braccia dell'altro e mi sentivo riaffluire la vita. La stretta possente delle sue braccia mi dava un senso di protezione, anche se mi rendevo conto che sarebbe bastato un non nulla per convertirla in un abbraccio mortale. Certo, avessimo avuto qualcosa da dirci, sarebbe stato molto imbarazzante, ma non lo avevamo. Ci bastava stare insieme a farci festa. E lui, quando lo va a trovare, lo accudisce. Gli lavavo per prima cosa le mani e gli tagliavo le unghie. La velocità con cui gli ricrescevano cornee e adunche era impressionante. Ma il padre è per la produttività e per la decenza. È un uomo coinvolto negli affari più loschi, gli servono la rispettabilità e il profitto. E quindi vede di malocchio l'affetto e il legame fra i due fratelli ed è seccatissimo, dice: ma che spreco impiegare un capitale intellettuale come Osmok per consolare questo figlio irrecuperabile. E nel pieno del racconto di Osmok si leva una specie di barrito che copre la voce di Osmok. Muore la madre dei due ragazzi, poi anche il padre, e allora Osmok va a stare in campagna col fratello, cioè lo libera, perché finora, grazie al padre di lui, lui era lo schiavo dei fattori che lo aggiogavano anche all'aratro. E mi stabilì in campagna come un arca devizioso. Così Osmok attende i suoi studi e intanto sta con Osak, lo tiene occupato in piccoli lavori, premia col miele i suoi progressi, gli dà delle sberle se non ci riesce. «Et in Arcadia nos», esclama con nostalgia Osmok durante il racconto. Il fratello muti, i libri muti, una specie di piccolo paradiso, la perfetta armonia. I ritmi primitivi di Osak si sposano al ritmo dei versi. Riprendeva a spaccare la legna o riempire la carriola di ciottoli destinati al viale d'ingresso. Il rumore costante del suo spaccare o riempire m'era spunto alla creazione di nuovi ritmi, toc, toc, toc, di docili versi il legame mosaico, toc, toc, toc. Lui pestava e io computavo di sillabe e piedi la maggiori al minori alternando e l'eftemimera curioso tentando. La guardiana del faro. Stiamo raccontando il libro di Bestia in Bestia di Michele Mari. Osmok, l'affabile ambiguo padrone di casa che ospita i 3 viaggiatori nel suo castello tra le nevi, sta raccontando di sé. Ha rivelato finalmente l'esistenza di un suo fratello identico, gemello, che ha tutti i doni della forza fisica, ma non ha quasi il dono della parola. Osmok racconta del loro passato, racconta della loro vita in campagna, in cui i ritmi del bruto si sposano meravigliosamente ai ritmi dell'umanista. Ma c'è una complicazione. Intanto Osmok si è innamorato di Emilia, ed Emilia di lui. At the top of the stairs there's hundreds of people running around. Intanto Osmo che frequenta Emilia, alla quale non ha rivelato dell'esistenza di Osak, e quando viene in visita in campagna Osmok glielo tiene nascosto, lo rincaverna nella cantina dove continua a vivere, però con maggior libertà. Emilia mi voleva. Non mi garbava che mi volesse. Non era previsto. Quando mai Madonna ha manifestato di sì per il suo rimatore servente? Non doveva. A rigore non avrebbe dovuto far nulla. Doveva soltanto restare sullo sfondo. Avrei pensato io tutto. Io, con il sogno dei versi sognanti che fanno sognare. Abba, abba, cdcdcd. Invece lei non stava al gioco e mi voleva. In tutti i sensi. Questo era il punto. Naturalmente io mi schermivo, ma lei voleva più di quanto io disvolessi. Ed ogni giorno di più mi sentivo incalzato. E debitore, insomma, di un sì o di un no. Ai suoi occhi ero ancora lo svagato che si nasconde per timidezza o per vezzo. Pure qualcosa bisognava fare, e presto. Altrimenti, come Celiando, m'aveva pur minacciato. Se ne sarebbe andata per sempre, né più mai l'avrei vista. Il che poteva anche non dispiacermi, visto che la sua imago era ormai prigioniera nel mio cuore. Sì, se volevo imporre stabilmente la mia versione d'amore, non avrei più potuto eludere il nodo spinoso. Dovevo invece affrontarlo e risolverlo a mio favore una volta per tutte. E il modo c'era. E fu lei stessa a indicarmelo. Una sera escono insieme in questa campagna così bella. E lei è molto ardita. Lei vuole andare ai fatti. E lui non se la sente. Cioè, è tutto ciò che lui non vuole. E lui disse, mi ritrassi dolendo. E è anche un po' indignato. E lei gli dice, ma scusa, sei stato tu a provocarmi. Io. Osmok cade dalle nuvole e allora lei gli ricorda il loro incontro di poco prima. Dice, ma come ci siamo incontrati poco fa? E lui capisce, ha incontrato il fratello gemello che è tutta natura e le è piaciuto moltissimo perché l'ha guardata con concupiscenza. Certo ha notato che non era proprio uguale, che era un po' trasandato, anche di questo si è stupita. E allora questo dà a Osmok la grande ispirazione. Osmok capisce che il fratello lo completa, che potrà fare ciò che a lui ripugna. Ecco come il nodo spinoso, come risolverlo. Ciò che per lui sarebbe la morte dell'amore, invece per Osak sarà una gioia. Lui conta non a torto sul fatto che la bella Emilia tanto sveglia non è. E quindi Osmok comincia segretamente a istruire il fratello, a comportarsi, a ravviarsi, ne fa una sua copia approssimativa ma credibile, almeno al buio, e ottiene grandi risultati dandogli il miele come premio, come sempre, e le tortorate come castigo. Gli insegna anche come fare l'amore, ovvero come trattare il corpo di una donna senza distruggerlo con la sua forza micidiale. Però lì ne sa poco anche lui, ma per la teoria si aiuta coi libri e quindi in teoria il suo allievo sarebbe pronto, ma per la parte pratica è costretto a ricorrere ad un aiuto fisico, ovvero alle bambole di gomma. Dopo molto meditare decisi di scrivere nelle rigide svezie e di farmi spedire una di quelle bambole pneumatiche, sapete, e anziché verisimili, ben misera cosa, ma più che bastevole a un essere come mio fratello. Ne prese anzi un gusto matto. Naturalmente dovetti riscrivere nel regno di Svezia molte altre volte, la vita di ogni bambola essendo assai breve. La prima resse l'impeto per circa un minuto, poi squassata, esplose riempiendo la cantina di rosa e brandelli. La seconda sopravvisse qualche secondo di più prima di fare l'identica fine, mentre la terza evitò l'esplosione sgonfiandosi quasi subito con un sibilare sinistro tagliuzzata in più punti dall'ugne rapaci del tristo gemello. Ne occorsero 62 di quelle artificiate creature perché egli riuscisse a consumare il suo tremendissimo orgasmo con sufficiente misura. Finché l'apprendistato di Osak è compiuto, Osmok giudica il fratello ormai pronto per lo scambio di persona, per far compiere a lui l'atto inaccettabile che mantenga intatto il suo amore. E a questo punto, avendo il sostituto pronto, Osmok sposa Emilia senza nessun imbarazzo, perché agli obblighi materiali penserà l'altro se stesso, Osak, il quale ne sarà ben contento. Per la prima volta una donna invece di una bambola, che non scoppia, non si sgonfia, è durevole, sa gemere, e le sue labbra sono vere. Oh, la genialità maniacale di Osmok dà il meglio nell'organizzare lo scambio notturno. Dunque, il locale sotterraneo di Osak è proprio sotto la camera da letto degli sposi e al buio avviene lo scambio. Osmok si cala nella cantina e Osak sale sul letto, al suo posto. Di bestia in bestia ci riporta ai tempi più propizi all'amore, ai tempi delle tenebre, quando ancora era possibile il segreto e lo scambio di persone. Oh, la prima volta Osmok, una volta che è sceso in cantina e sa che l'altro è a letto con sua moglie, è terrorizzato e anche pieno di rimorsi, ma alla fine si chiede: oddio, che ho fatto? Ha messo la sua sposa, la sua angelella, in mano al bruto. Non è mica un passo facile. Fin lì è stato preso dall'ingegneria, ha barato il meccanismo, ma starsene in cantina a spiare i rumori del primo amplesso è un altro paio di maniche. Che gli farà? E se la disgusta o lo uccide? E invece va benissimo. Anzi, non la finiscono mai. E una terza, e una quarta, e una quinta, che sempre quel gemino ottuso va replicando suoi amplessi furiosi, inesauste energie attingendo da solombi capaci. E quindi va benissimo tra loro, non solo. E quella volta in cui lei mi disse, le raggiavano gli occhi, che era molto più interessante la notte che il giorno, proprio così. Ad ogni modo, a prescindere da quei lievi incidenti, era evidente che un tale regime di vita non poteva che far bene al mio amore, che librava aereo in libertà infinita sviluppando sua delicata vicenda. Ero felice ed Emilia con me, e credo che anche Osak non se la passasse male, fra bidoni di miele e convegni notturni. Buon caro indispensabile bestione. 3 anni durò quella vita. Osmok è al colmo della felicità. Si sente più ricco di Hoffman, di Villiers de l'Isle d'Adam, di Kokoschka messi insieme. Ha 2 bambole meccaniche invece di una. Ha 2 automi al suo servizio, ma imperfetti, perché di carne e, sebbene debolmente, pensanti e senzienti. 2 creature deperibili e inaffidabili. E da lì verranno tutte le catastrofi e i delitti e i misteri del castello fra ghiacci. Saranno svelati. Ci fermiamo qui. Mentre la bella Emilia palpita di notte fra le braccia dell'uomo naturale e di giorno sta con l'uomo culturale in quel perfetto menage loro, ci fermiamo qui apposta, sperando di prendere qualche ascoltatore all'amo, nel doppio senso di esca e voce del verbo amare, al punto che si è portato a investire 19,50 euro per avere con sé questo libro. Vanna Marchi dello Spirito, cerco di insinuare nelle vostre case il seme di questa pianta infinitamente diramata che è il romanzo di Bestia in Bestia di Michele Mari. Io vi ho accompagnato fin qui. Se volete andare avanti, andateci da soli. Non voglio privarvi del terrore, delle spaventevoli avventure e anche delle risate e delle voragini che si apriranno sotto i vostri piedi nelle pagine che seguono. Posso solo dirvi che questo libro è una festa fin dalla copertina. Quel draghetto di Kubin è la scrittura di Mari. Mostro, amico, giocattolo, ilarità irrimediabile dell'inquietudine. Poi dentro le soddisfazioni ci sono tutte. Oltre allo scherzo e al terrore c'è pure il dottor Lambicchi con la sua arcivernice. E con tutto quel sangue l'essenza del libro è clemente. È speranza nella sintesi dell'arte, tenerezza per i misteri del linguaggio, alta sapienza che ride di sé, prodigio di letteratura classica e fumetto. È la lingua italiana, che in Michele Mari è rivelazione splendente senza fine. E poi, dopo che l'hai finito, ripensi a delle cose, no? E alla fine, dopo qualche giorno, ho capito che quel mondo di ghiacci nel quale lui si trova, e questi barbari che non sanno la lingua, e Peo che per dire sì signore dice zzgnurra, quei primitivi che non sanno parlare, siamo noi, sono io, siamo tutti. Quel balbettare, quello storpiare, quel non possedere il linguaggio è un altro capitolo dell'orrore dei giardinetti, quel racconto contenuto in Tu sanguinosa infanzia. Siamo noi l'incubo, gli altri. In questo libro il mistero perdura oltre la lettura. Io non ero sicura di aver capito bene il finale, però mezz'ora dopo che ho chiuso il libro esso mi ha raggiunta e ho proprio visto e sentito cosa era accaduto ai personaggi sulla neve. E dopo aver capito, me ne è venuto un sorriso beato, da Osak, che poi il sorriso di cui parla William Blake. C'è un sorriso dell'amore e c'è un sorriso dell'inganno. E un sorriso c'è dei sorrisi, dove si incontrano quei 2 sorrisi. E mai nessun sorriso fu sorriso, ma solo quel sorriso solo. Sorriso che dalla culla alla tomba, sorridere si può una volta sola. Quando è sorriso, a fine ogni miseria. Find the door that doesn't lead me back again. La guardiana del faro. Quando leggiamo Michele Mari, poi ci sono sempre molte reazioni. Ecco questa. Bella sorpresa sentir leggere a Radio 24 dei brani di Michele Mari. Anche se lei a volte si mangia le parole, la potenza del testo supera ogni dizione. Dice che ha moltissimi debiti con quest'autore, però vuol parlarci soltanto di uno. Per me sarà sempre colui che ha sciolto l'enigma di Céline, sul quale mi tormentavo. Come ha potuto scrivere Bagatelle pour un massacre? Com'è possibile che questo genio assoluto diventi un cretino? Il lazzo antisemita, la boutade che prelude alla denuncia, livellano il genio e l'imbecille. E non c'è fulgore di stile che possa coprire questa idiozia. In tutto il ferro della Torre Eiffel, Mari mi ha fornito la spiegazione. Non era lui quando l'ha scritto, era un altro. Ce l'hanno sostituito. Quest'altro scrive, ma che ce frega di Michele Mari? Leggeteci Federico Moccia, che quello almeno si capisce. Ecco, questa lettera, giurerei, l'ha scritta un intellettuale. Perché un intellettuale che si finge rozzo e che crede, esagerando la rozzezza altrui, di sfuggire alla propria. Questo è un professore di matematica al liceo, il quale ci scrive che ha suggerito alla collega di lettere di fare studiare i libri di Michele Mari. Sarebbe un argine a questa frana della lingua italiana. Lei mi risponde, ma è difficile. Lo nego. Solo le cose brutte sono difficili. Vorrei che i suoi libri diventassero dei bestseller. Ma questi libri sono molto di più. Sono dei classici. Poi la catena dei suoi lettori magicamente si allunga e i lettori di Mari hanno una peculiarità. Difficilmente restano lettori, diventano poi dei cultori. Entrano nel suo mondo fantastico e linguistico e non ne escono più. La sua scrittura dà luogo a prodigi ben più rari di quelli che tu desideri. Sulla sua scrittura fioriscono altre arti. La scrittura di Mari ha il potere di suscitare, ecco, spontaneamente, per esempio, una bottega letteraria. C'è una rivista online che esce con le stagioni, Poco mossi gli altri Mari, dedicata all'opera di Michele Mari, ideata e diretta da Hugo Doyle, un nome che sembra uno pseudonimo letterario in questo gioco di doppie e di ombre, e invece è il suo vero nome. È una rivista online ma segreta, per pochi, per gli affiliati, come si addice a questo scrittore del mistero. A Poco mossi gli altri Mari si accede con una chiave come quella di Barba Blu, tutte le porticine meno una. Poco mossi gli altri Mari è l'anti-Twitter, un luogo segreto, incontaminato. Ci lavorano come se fossero gli ultimi monaci amanuensi, Hugo Doyle, suo padre Thomas, irlandese, e sua moglie Elena, e pubblicano e traducono Michele Mari per amore della bellezza. E questo è un fatto mirabile perché accade oggi. Un tempo in cui gli scrittori e i premi si ammazzano fra loro in diretta e si fa qualsiasi bassezza per una recensione, si ammazza il cognato. Ecco, e invece questa bottega letteraria agisce oggi, come scriverebbe Mari, nell'orribile tempo nostro, non il tempo di Acab, non il tempo di Silver. E quindi avviene questo gioco, questo trasferimento di mondi in questa famiglia internazionale, poliglotta. Ugo e suo padre Thomas ed Elena sono talmente invasi da questo scrittore che possono riscriverlo, possono trasformarlo. E non so per quale benevolenza dell'oroscopo il riservato Hugo Doyle ha accettato di venire al Faro a parlarci di questa impresa, di questo gioco intorno a un gioco che è Poco mossi gli altri Mari. Vi presento Hugo Doyle. Buongiorno. Ci vuoi raccontare qualcosa di com'è cominciata? Ma io ho avuto la fortuna di leggere un romanzo di Michele Mari parecchio tempo fa. Nel 1990 acquistai Io venia a pien d'angoscia a rimirarti e mi innamorai di questa penna d'oca subito. Da allora ho letto le varie cose che Michele Mari ha scritto, ne ho decantato l'uso della lingua, il modo di mettere in parole pensieri espliciti o impliciti che magari avevo in testa o che magari non avevo, a mia moglie, che a quel tempo non parlava l'italiano. E mi sono detto, l'unico modo per farle apprezzare quanto è bravo Michele Mari è di provare a tradurlo in inglese. La nostra lingua è appunto l'inglese. Quindi con mio papà ci siamo messi a tradurre una serie di racconti e così è nato questo progetto di traduzione che è nato da una voglia di trasmettere un'emozione. Questo contraddice una famosa affermazione di Pasolini: la famiglia è un'associazione a delinquere. Ecco invece una famiglia che è un'associazione per il bello, perché quando un autore diventa così importante non si può sopportare l'idea che qualcuno che ami non abbia certe chiavi che tu hai trovato nel libro, se no non ci si capisce più. Il lavoro di Hugo Doyle e di suo padre intorno all'opera di Michele Mari mi ricorda una frase contenuta nel racconto di Michele Mari Otto scrittori, quando il narratore dice a Edgar Allan Poe: la tua perfezione è la mia pace. Tu fai un altro lavoro però. Questo lo faccio per passione, è il mio divertimento quotidiano. Fisicamente chi ti aiuta in questa rivista? Ma vari amici con cui ho condiviso questa passione. La rivista include parti audio, ci sono audioletture fatte da vari amici, permettetemi di ringraziarli e di citarli alcuni almeno. Sì, sì. Maurizio Lampi, mio caro amico, Michel Müller, Fabio Rastrelli, Demetrio Cofone e Astrid Cani, che è un poeta albanese che ha avuto la benevolenza di tradurre in albanese alcune poesie di Michele Mari che sono parte della rivista. Ecco, per esempio voi nell'ultimo numero, il numero di Primavera, avete pubblicato il racconto di Mari, Le copertine di Urania, che io avevo già letto in Tu sanguinosa infanzia, però non c'erano le illustrazioni e voi avete messo proprio le copertine di Urania. Quelle specifiche di cui si parla nel racconto. Di cui, certo, si parla. E poi ci sono anche i fumetti di Michele Mari su La quarta spedizione da un racconto di Ray Bradbury. C'è un dialogo tra Michele Mari, tra Céline e il mio amico Fabio Rastrelli, che si inventa un dialogo con questi due scrittori nei passage parigini, e quindi ci sono cose ulteriori rispetto a traduzioni o riproduzioni di racconti di Michele Mari. Quindi Mari è una fonte di ispirazione infinita. Per me certamente. Senti, io non posso permettermi di invidiarvi, perché se invidio qualcuno che ha qualcosa alla quale tu potresti aspirare, ma l'idea di entrare in uno scrittore e trasformarlo con questa sapienza delle due lingue, non ce l'avrei mai, quindi non è che ti invidio, però certo penso con sbalordita ammirazione che voi passate la vita, in casa vostra si cucinerà, ci saranno i bambini che frignano, eppure voi passate la vita a tradurre brani come questo. Chiudo gli occhi e rivedo un cervello assoluto che naviga nello spazio, una pattuglia artica rinuflessa davanti all'immensa massa madreperlacea del grande Kirn, un ragno aragosta sul punto di ghermire una donna addormentata in riva al mare, forme spinose, gibbose, radiali, germinanti dalla fronte allucinata dei figli della follia, un bulbo oculare circondato da topi, un mostro acquatico con la faccia di paperino, una folla di figure sgomente assiepate in un cratere, un volto spolpato ricoperto da scarafaggi, un essere liquido riflesso in uno specchietto retrovisore, una donna reclinata sui primi gradini di una scala infinita. A crowd of appalled figures jammed in a crater, a gnawed face covered with cockroaches, a liquid being reflected in a rear view mirror, a woman reclined on the first steps of an infinite stairway. Prima che ci stacchino la corrente, vorrei dirvi che l'editore Aliberti ha appena pubblicato un mio libro intitolato La guardiana del faro, che raccoglie aforismi, lettere e racconti sull'amore che abbiamo letto a Radio 24. Avvertiamo chi fosse nei paraggi che alla Fiera del Libro di Torino, lunedì 20 maggio alle 14, al Caffè Letterario, presentiamo questo libro con Barbara Lanati, Laura Righi e Giulietta Revel. Se qualcuno di voi verrà, sarò felice di salutarlo. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.